seminario olimpico. Chi c'era sopra? Chi c'era sopra? Sua sorella, signore. Chi c'era sopra su quell'aereo? Chi c'era? Che cazzo? 27 giugno 1980, aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, Borgo Panigale. Su 19 con destinazione Palermo ci sono 81 persone. Chiudete gli occhi, provate a vederli. Qualcuno legge, altri parlano tra loro, i 13 bambini ridono. Davanti c'è solo la lunga striscia di asfalto, poco meno di un chilometro. Sopra il cielo azzurro. Sulla destra e sulla sinistra si scorgono altri aerei negli hangar, ancora i capannoni, alberi e più in là le verdi colline di Bologna. Le vetture dei vigili del fuoco si fermano. Le ali dell'aereo sono perpendicolari alla pista e su quella di sinistra il 19 porta una scritta con vernice nera. ITG 2008. Il volo 19 Italia decolla da Bologna con 113 minuti di ritardo. La torre di controllo gli assegna un numero di identificazione, IH870. Sale su, verso il cielo, verso l'aerovia Ambra 12. Sono le 20:20. Il 19 si trova ormai allineato a Radio Fare di Firenze. Il viaggio continua. Il pilota prende contatto con Roma Ciampino. Il 19, IH870, vira a sinistra e imbocca Ambra 14, l'autostrada del cielo che percorre la dorsale appenninica verso sud. Il sole in quel momento sta calando dietro la linea dell'orizzonte, ma per il tramonto c'è ancora bisogno di vento. Per i passeggeri sono risate, discorsi, pensieri, ricordi, angosce, dubbi, quelli di una vita. Sono le 20:26. Vediamo che sta andando verso Grosseto. Ma che prua! La 870 è perfettamente allineata sulla radiale di Firenze. Abbiamo 153 in prua. Diteci che cosa dobbiamo fare, gli dice l'aereo di sopra. Terra gli dice, adesso vedo che sta rientrando però, eh. Praticamente, ecco, diciamo che si è riallineato. Mantenga questa prua. E il comandante pilota gli fa, noi non ci siamo mossi, eh. 20:50, l'aereo è sull'isola di Ponza, la sorvola ed imbocca l'aerovia Ambra 13, quella che va giù fino a Tripoli, passando per Palermo Punta Raisi, dove l'aereo è atteso per le 21:13. Ma in quel momento sono ancora le 20:58. Ci sono grandi parabole della difesa aerea che lo seguono. Il 19 è nulla di più di un puntino, che si muove in mezzo ad altre tracce, tutte ancora da decifrare. Aerei, un traffico fuori dal comune. Sito di Marsala, nome in codice Moro. Un sottufficiale sta proprio davanti allo schermo. Segue tutti i punti che si spostano in lungo e largo per il Tirreno. Per il 19, Italia IH870, è già pronto un codice di identificazione della rete militare, AJ421. Sta a vedere che quello dietro mette la freccia e sorpassa. Le 20:59, prima una barzelletta, una risata. Alla fine quella del pilota del 19 sarà la ultima parola ingoiata di traverso. Forse vede qualcosa di inverosimile, lo stupore, la lingua piegata sul palato, neanche una frase, le mani che non rispondono, nemmeno il cervello, e in quel momento la radio proprio non riesce ad attivarla. La paralisi, una frazione di secondo, un attimo. L'aereo cade in mare, punto Condor, il punto aeronautico tra Ustica e Ponza, il punto nautico che per l'aereo segna il momento di non ritorno. Sono ore concitate dei siti radar, c'è una registrazione inedita di una conversazione della sera del 27 giugno dell'80. La sala operativa di Dicola in codice Barca chiama al centro di Marsala. Barca, eh? Sapete che voi mettete l'inizio di 18870? Ecco, le voci che ascoltate sono quelle degli operatori di Ciampino, quelli che tentano di chiamare l'ambasciata americana. Sentite il tentativo di avvertire l'ambasciatore, l'affermazione c'era un'esercitazione. E ancora i contatti con la base di Sigonella, le prime missioni, i primi depistaggi. No, non è una fiction. E si sente alla fine nitida la frase. E se cade un phantom, chi chiamate? Mike and Good evening. I just called you and you sent me an extension 550, but there was no answer. Just nobody there. Yeah, that's you. This is the air traffic control of Rome speaking. We have a problem with an aircraft and we should speak to somebody. Have you got any other number to call? Just a minute. I have to reach somebody home. If the aircraft has crashed, the 81 person is dead. So I think it's important enough to call somebody. C'era una tessitazione? C'era una tessitazione in giro? Americana? Tessitazione? Di 23 anni si conoscono molte cose di ciò che avvenne la sera del 27 giugno del 1980. Una verità racchiusa in 5.000 pagine nella sentenza ordinanza del giudice romano Rosario Priore. Una verità racchiusa anche in centinaia di udienze all'interno di un processo iniziato ormai da alcuni anni. Pochi mesi fa una missione, il leader libico Gheddafi ha dovuto ammettere, quella sera ci fu uno scenario di guerra intorno al 19 e furono gli aerei americani ad abbattere. Il giornalista del Corriere della Sera, Andrea Purgatori, racconta lo scenario che stava quella sera dietro a Ustica. Ma era una guerra naturalmente non dichiarata, ma combattuta già da qualche tempo, dove lo scenario internazionale, soprattutto nel Mediterraneo, era estremamente caldo. La Francia in Chad che aiutava le truppe contro Gheddafi, Gheddafi contro l'Egitto, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti in una situazione di conflittualità, di tensione, gli ostaggi dell'ambasciata americana a Teheran ancora in mano ai giovani Pasdaran. In tutto questo Gheddafi approfittava del rapporto che aveva con l'Italia, che era il nostro ed è ancora principale fornitore energetico sul piano del petrolio, c'erano 20.000 lavoratori in Libia, in qualche modo con i servizi segreti otteneva che alcuni dei suoi MIG che andavano in manutenzione sul Tirreno. L'ultimo magistrato che ha indagato, cioè il giudice istruttore Rosario Priore, abbia fatto un lavoro straordinario. Penso che sul piano di ciò che era possibile recuperare, che non era stato distrutto, che non era andato perso, che non era stato occultato, più o meno tutto è stato trovato e c'è uno scenario anche abbastanza chiaro di ciò che è successo, vale a dire quasi certamente quella notte un aereo militare si nascose nell'ombra del DC-9 e fu intercettato da caccia americani o francesi e di conseguenza poi il DC-9 civile che volava da Bologna a Palermo ci finì in mezzo e fu o abbattuto o comunque si trovò al centro di un'azione di guerra. Ciò detto, c'è un limite oltre il quale la magistratura non può andare, perché è impensabile che un magistrato possa andare a convocare il Presidente degli Stati Uniti d'America per porgli delle domande e pretendere quelle risposte che fino adesso non abbiamo avuto, ma questo anche per la Francia e soprattutto per la Libia. Credo che ci sia un problema politico, a questo punto è tutto nelle mani del governo.